Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. C'era una volta l'high tech, si potrebbe dire. Io sono Maurizio Melis e stasera, Mr. Kilowatt, parliamo di stufe e camini che ormai hanno raggiunto un livello di efficienza termica e di sofisticazione nelle possibilità di programmazione da fare concorrenza alle più moderne caldaie. L'uso di combustibili di origine vegetale è antico quanto l'uomo, ma è stato quasi abbandonato negli ultimi decenni dal mondo occidentale. I più pratici combustibili fossili sono entrati di fatto in quasi tutte le abitazioni. Ebbene, oggi assistiamo, se non a una inversione di tendenza, certamente a un ritorno di fiamma, potremmo proprio dire così, di combustibili come legna e derivati. Questo fenomeno è solo in minima parte classificabile come vintage, o insomma come una moda. Certo, il fascino del fuoco rimane, ma sono le caratteristiche tecniche dei discendenti delle vecchie stufe e dei vecchi camini ad aver conquistato spazio sia nei cuori che nei portafogli di coloro che hanno scelto questa soluzione. Cerchiamo allora di conoscere cosa offre il mercato da questo punto di vista. Ne parliamo con Marino Berton, presidente di AIE, l'Associazione Italiana delle Energie Agroforestali. Buonasera Berton. Buonasera a voi. Dunque, le chiedo di aiutarci immediatamente a farci un quadro dell'offerta in termini di combustibili. Quali sono i più diffusi? Allora, nei combustibili legnosi noi possiamo classificare la buona vecchia legna a pezzi e il cippato, che non è altro che legno ridotto a schegge, chips, un neologismo, il pellet, che non è altro che segratura pressata e trafilata, cilindretti quindi di segatura che diventano pellet. Benissimo, allora abbiamo detto che queste nuove stufe, nuovi camini consentono una grande programmabilità, una grande flessibilità. Ecco, come possono essere utilizzati? Ecco, possiamo proprio dire dalla tradizione all'innovazione, nel senso che cioè, la vecchia fiamma della legna da ardere che crea atmosfera insomma, si è profondamente modificata. Sono intervenute delle tecnologie che hanno perfezionato molto le tecniche di combustione per raggiungere livelli di efficienza sempre più elevati e naturalmente allo stesso tempo livelli di emissione sempre più basse. Oggi siamo riusciti ad arrivare a rendimenti che in molti casi superano il 90%. Una combustione molto spesso veramente molto qualificata, molto buona, tecnicamente potremmo dire stechiometrica, cioè nel senso che si è lavorato molto per raggiungere rendimenti altissimi e emissioni bassissime. Ecco, perché infatti l'altro aspetto è quello delle emissioni. In realtà la vecchia come dire, modalità di bruciare il legno nel camino produceva delle emissioni inquinanti, niente male. Eh sì, certamente. Naturalmente con l'aumentare dell'efficienza assistiamo a una analoga riduzione potentissima delle emissioni. In certi casi abbiamo proprio degli apparecchi che hanno addirittura la sonda lambda, cioè un sistema che misura in continuo l'ossigeno disciolto nei fumi di scarico e quindi ottimizza in continuo l'aria da immettere nel processo della combustione. Ecco, noi sentiamo molti rumori di fondo in questo momento perché lei si trova a Verona, diciamolo subito, dove proprio oggi sta per partire una fiera che consentirà al pubblico di vedere un po' tutto quello che offre il mercato da questo punto di vista, per cui insomma, consigliamo ai nostri ascoltatori di andare a dare un'occhiata. Ecco, torniamo invece al nostro discorso, abbiamo detto che la combustione è molto buona, ma queste stufe, questi camini consentono anche un livello di programmazione molto sofisticato, hanno dei sistemi di rifornimento piuttosto comodi, insomma non si tratta di andare lì tutti i giorni per forza a buttare dentro legna piuttosto che cippato, piuttosto che pellet. Un altro elemento su cui in questi anni la tecnologia è intervenuta è per aumentare, come dire, i tempi rispetto all'approvvigionamento. Cioè, se noi siamo abituati a una caldaia a gas che si approvvigiona praticamente in modo autonomo del combustibile, in questo caso un combustibile fossile, e quindi noi partiamo la mattina dalla nostra abitazione e torniamo alla sera e pretendiamo giustamente di trovare una casa calda, certo, e confortevole, e abbiamo dovuto lavorare in analogia a questo sistema, utilizzando dei sistemi di approvvigionamento automatici, per esempio nel caso del cippato oppure ancora nel caso del pellet, anche in questo caso ci sono dei silos autoapprovvigionanti che riescono a alimentare la caldaia in questo caso oppure la stufa a pellet nel caso di una scala più piccola, sì, in maniera automatica e senza avere fastidi o preoccupazioni. Insomma, abbiamo delle stufe che si alimentano da sole e che si accendono anche da sole se è il caso. Come no? ci sono alcuni modelli che possono essere accesi semplicemente digitando con il cellulare un codice e noi possiamo arrivare a casa con la stufa già calda, accesa e sistemata. Insomma, siamo di fronte a delle vere e proprie caldaie che permettono anche l'accumulo dell'acqua, l'utilizzo per il riscaldamento con i termosifoni, che però vanno grazie a questi combustibili di origine legnosa. Quali sono i vantaggi economici? Naturalmente noi dobbiamo fare riferimento alle diverse tipologie di combustibili fossili. E quindi ci sono realtà che si alimentano a gas metano, a gasolio, a GPL. Diciamo che mediamente siamo nell'ordine dei 30 al 50%. L'utente ha gli strumenti per capire se il combustibile è buono o no? Sì, in Italia c'è un sistema di attestazione della qualità volontario che si chiama Pellet Gold. Ci sono altri sistemi di certificazione tedeschi, il DIN Plus, e austriaci, l'ONORM. Va bene, grazie Bertone, a risentirci allora. Prego, buonasera a tutti voi e ai suoi ascoltatori. Con questo possiamo chiudere, domani parliamo di isolanti sintetici naturali, quali sono i vantaggi e quali sono le cautele. Una piccola precisazione rispetto a una puntata andata in onda qualche tempo fa, quando abbiamo parlato di un particolare sistema di condizionamento VRV, in realtà c'è anche un'altra sigla, VRF, è importante spiegarlo perché la sigla VRV è utilizzata da una sola marca, mentre tutte le altre fanno ricorso a quest'altra sigla, VRF, cioè Variable Refrigerant Flow. Buonasera a tutti.